Avevi usato un bellissimo suono, per esempio, però l'hai abbandonato subito, che ho detto, vedrai che non le è piaciuto. In questa jam session che hai fatto adesso, hai usato del suono di queste trombe distorte, stupide, su quella loro percussione che stava, si stava revisando. Ho fatto la scelta sbagliata. Però l'hai mollata, ho detto, chissà perché l'ha mollata, forse non le è piaciuta, o forse ha voluto essere sintetica, mi sono fatto questa domanda. Ne stavo cercando un suono di marimba che ho trovato prima, che mi piaceva, che pensavo di fare delle cose un po' minimaliste sulla loro percussione. Certo. E non riuscivo a trovarlo e trovavo tutte queste robe, diciamo, le trombe scrause erano proprio fighe. Avrei dovuto tenerle. Sembrava, sai, una fanfara sgangherata che... No, questa decisione l'ho presa dopo, ho detto, vabbè, ma schifo, portiamola fino in fondo. Abbiamo il coraggio di fare questo. No, era stato interessante. Però, sì. Di che si scopre. E... Allora, io nasco come musicista classica, ho fatto studi classici, sono diplomata al Conservatorio di Cagliari. Fin da ragazzina pasticciavo un po', suonavo un po' oltre a fare gli studi normali. Però insomma io ero un po'... È rimasto sto trauma? Poi rubavo le caramelle, poi mi sono cadute tutte, allora dopo mi hanno detto mangia un brodino di volpe, mi arrampicavo su. Un brodino di volpe, perché? Perché c'era la vedella che ci dava gli zuccherini e poi li nascondeva a Verona, perché ho fatto le elementari a Verona. Hai avuto una scuola tosta. E allora io uscivo, dicevo, maestra posso andare al bagno? Sì. Allora mi arrampicavo su questo grandissimo... armadio e poi un giorno mi sono cadute tutte per terra. Poi successivamente ho iniziato a suonare con dei gruppi che facevano musica originale, ed è nata un po' l'esigenza di improvvisare, di uscire un po' dai binari, in qualche modo. E per cui ho pensato che la cosa migliore fosse avvicinarmi al jazz, perché era la musica che mi pensavo, insomma, che mi consentisse di fare. Sono passato anche attraverso la musica jazz, ho suonato per molti anni jazz, nei jazz club, nei festival di jazz e via. Il jazz non era una musica adatta, nel senso che io non ho mai suonato, non ho mai amato suonare gli standard. Non mi sono mai piaciute le jam session, non partecipavo. Queste sono più divertenti. Certo. E quindi ho un po' attraverso appunto un po' la composizione, lo studio anche della musica contemporanea, mi sono avvicinata all'improvvisazione, alla composizione estemporanea. Thank you. complessa, nel senso che se mi accorgo che ripeto le cose, che so benissimo che è inevitabile, perché certo. Credo sia un problema di tutti. Quindi il tentativo è quello di cercare di incrementare, insomma, un po' il vocabolario, di arricchirlo con apporti che cerco anche in altri. È anche per questo che studio anche la musica scritta, perché mi consente di uscire un po' dal mio mondo e di incontrare quello degli altri. Specie di psychedelic folk. Tu sei in qualche modo coinvolta da queste sì. Non so bene che cosa intendo, no, però. Ma neanch'io, però è interessante che non. Io cerco di. Sto cercando di. Innanzitutto di uscire da certi meccanismi che si sono un po' radicati. Mm-hmm. Mio malgrado, nel senso che io non vorrei più averli. Per esempio, appunto, un certo linguaggio ancora ancorato al jazz, anche stasera è venuto fuori, io non, anche se non voglio, che poi in realtà poi a volte funziona. Certo, quando usavi quella formula lì in 6 che usavi, che hai tenuto per tanto tempo, è una formula, diciamo, già sentita, che però funziona. Sei bravo, io non sapevo che funzionasse, non me ne ero accorta. Essendo da fuori, chiaramente tu l'hai fatta distinta, però sì, sono quelle formule già sentite che funzionano però, quindi sì, no, uno no. Dice anche... No, ma infatti quello che vorrei riuscire a fare è, da una parte, essere capace di tenere, per esempio, una certa energia per molto tempo, perché questo non sono ancora in grado di farlo. Cioè, magari devo raggiungere anche un po' quel coraggio. Il coraggio che ci vuole per stare, insistere su anche su una figurazione, portarla fino in fondo. Certo. A volte si tende un po' a svuotare, magari anche c'è un po' anche. Ma viene a mancare anche un po' quella forza, certo. Quella convinzione che è necessario. Esatto. E una musicista donna c'è nella tua vita? Che ti ha insegnato? Per carità. No, donne. Tom lunedì. Perché tu sei Silvia? Io sono Silvia Corda. Corda. Corda. Mi stavo riflettendo tanto su questo fatto di quanto si droghino prima di partire. No, di quanto il filtro che ti pone qualche cosa tra te e la celebrità intossichi la visione che tu hai della celebrità, distorca. Non l'hai detto. No, niente è detto, però quello che voglio dire è che spesso tu apprezzi molto di più a priori quello che viene fuori da un personaggio celebre, e poi se ci pensi bene tu riesci a farne uguale e forse meglio. Cioè, tu ne dico tu generico, no? Cioè un qualsiasi essere umano riesce a fare di più nella maggior parte dei casi. Uno premia la continuità, no? No, è quasi da quello che gli fa intorno che conta. Tu guardi, tu consideri un quadro più figo di un altro perché c'ha una miglior cornice. Ciao, sei? Ciao, sì, ecco. Chi si mette a piano? C'è tutto questo discorso di spersonalizzazione dell'arte, è importante secondo me. Secondo me è uno dei discorsi più importanti. È proprio quello che voglio, la spersonalizzazione, e non però che non sia egualitarismo, non so se mi spiego. Cioè l'individualità va assolutamente conservata, ma la firma non c'entra niente con l'individualità. Tu fai quello che tu vuoi fare, però perché hai bisogno di firmare? Allora, brano numero 6. Come succede spesso nei dischi di Ned, qua hanno suonato questo, questo, questo e questo, no? Giusto per... perché hanno suonato queste persone e non altre, ma non perché questo ha suonato questo scorreggio in questo pezzo al questo minuto, no? E invece, che ne so, questo quadro l'ho fatto io, l'ha fatto lui. Oppure in questo pezzo lui suona questo basso invece che quest'altro, mi raccomando che da quest'altro pezzo a quest'altro pezzo non è lui ma è un altro. Invece noi spesso ci si confonde, no? Cioè tu per capire che sono io la batteria e non il capitano devi ascoltare il pezzo, perché c'è scritto Dario Nitti in batteria e Capitan Nikonos batteria. Io ho scritto il pezzo il minuto in cui io sono la batteria e il capitano sono la batteria. O mio fratello suona la batteria, o Roberto suona la batteria, non c'è scritto. C'è scritto che tutti quanti magari hanno suonato in maniera di momenti diversi, e tu devi, sei costretto ad ascoltare per capire diversi stili. Sì. Fino a che non arriveremo al momento in cui, o forse torneremo al momento in cui non c'è più il bisogno di dire chi sta suonando. Come è sempre stato nella storia dell'umanità, quando la musica è una questione sacrale o tribale o sociale. Cioè, ci sono delle persone che sono quasi tutte quelle che frequentano questo villaggio che sono in grado di suonare qualcosa quando serve. Se uno crede che la storia sia fatta a cerchi, è là che si deve tornare.